alta pianura una volta bulla, ora è pennellata di un florido nero, tra le carcasse un'oscura fanciulla, trascinata dalla danza di un guerriero, il visconte per la via novella, seguendo gli arti che portano alla guerra, marce carogne l'odor di budella, le ossa cresciute frutto della terra, la luce corona l'occhio, l'uomo di un'alba alla sella, il volto protegge dalle schegge che carne flagella. Sordo il boato, al nemico punta la sua lama sguainata, mille cannonate segnano il suo fato, stretto dal nemico innanzi all'alba dorata, mille cannonate, una l'ha centrato, grida alla vita che sia dannata, morto il nemico, il visconte è dimezzato, evoca la madre che l'ha generato, la luna sulla barella, la luce si flette nelle schegge, che carne flagella, quante anime in 30 anni l'odio spegnerà, forse l'uomo mai più in basso scenderà, il visconte l'onor difenderà, quante lame laverà nel sangue,